24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa e appunto deluderò tutti i super affezionati ascoltatori di Alessandro e del suo modo di fare la rassegna stampa. Io cercherò insomma di fare del mio meglio come sempre, e oggi è uno di quei giorni in cui i giornali hanno aperture molto simili. Come avete sentito nel GR, la notizia di ieri, importante non solo dal punto di vista economico per noi europei e non solo, è quella dell'alta corte britannica che ha fermato, così titola il Sole 24 Ore, Brexit, l'alta corte ferma May, il primo ministro, sostanzialmente appunto l'alta corte britannica, alla quale peraltro Theresa May ha già fatto ricorso, ha detto che non potrà essere il governo a chiedere l'applicazione dell'articolo 50 perché la Brexit proceda, dovrà esserci un voto del Parlamento. Due i commenti sul Sole 24 Ore, uno di Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, una disputa sull'idea di democrazia, e uno di Adriana Cerretelli, che per tantissimi anni è stata a Bruxelles, conosce benissimo Bruxelles, e che inserisce questo colpo di scena sull'iter della Brexit in un generale problema di cui si è parlato spesso, di governance dell'Europa, l'Europa senza bussola. Ma l'altra notizia che vi segnalo dal Sole 24 Ore, poi tante altre cose ce le racconterà Mauro Meazza verso le 7:40, l'altro articolo di prima pagina è uno studio del Centro Studi Confindustria che mostra come l'Italia sia al settimo posto nel mondo per come paese manifatturiero e il secondo in Europa dopo la Germania. E mentre aspettavo appunto nella pausa tra la prima parte di 24 mattino e adesso la rassegna, mi sono divertita a vedere per esempio in che punto della classifica mondiale siamo come popolazione. Nel mondo ci sono 196 paesi ufficialmente, noi siamo appunto il settimo come paese manufatturiero, e pensate, siamo solo il 23esimo per popolazione. Questo è davvero un risultato che comunque dovrebbe, credo, inorgoglirci. Siamo ancora, appunto, abbiamo ancora questo peso notevole sulla produzione globale. E molti commenti che poi trovate nelle pagine interne del Sole. Il Corriere della Sera, come vi dicevo, come tantissimi altri giornali, sceglie di titolare sulla Brexit, frenata dai giudici. La fotonotizia però è dedicata all'ennesima tragedia nel Mediterraneo, con la strage di ieri davanti alle coste libiche. Sono 249 i dispersi. E poi due ricordi, troveremo anche su questo molti altri articoli, sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché cade l'anniversario dell'alluvione che 60 anni fa colpì Firenze. Ci racconta tutto Gian Antonio Stella, non perché lui sia toscano, perché sappiamo che è veneto, però ripercorre un po' tutto quello che successe allora e quello che poi è stata la ricostruzione, potremmo dire. Quindi Firenze 50 anni fa, l'alluvione, la generosità e l'ipocrisia. E poi vi segnalo, perché mi ha molto incuriosito questo, anche perché si collega a una notizia che invece avevo letto ieri sulla stampa, un articolo di Anna Meldolesi e si intitola "Il colpo di genio arriva a 60 anni. Non è vero che i giovani fanno le ricerche migliori, lo dice uno studio su 10.000 scienziati". Questo un po' per rivalutare, no? Si dice sempre che l'Italia è una gerontocrazia, o che comunque bisognerebbe dare più potere ai giovani, che in America quando si hanno 30 anni quasi non si è più considerati giovani, mentre qui da noi si considerati giovanissimi. C'è questo dato, e vi dicevo, poi trovate tutto l'articolo a pagina 27, perché questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science, ma vi dicevo ieri sulla stampa era uscita invece una notizia raccontata poi da Lorenzo Mondo sul boom dei trapianti dei donatori over 80, si raccontava appunto di questo boom di ultra ottantenni. È sicuramente un dato inedito, raccolto in particolare all'ospedale Molinette di Torino, che è un ospedale molto grande, dove un uomo di 83 anni ha donato un rene a un dializzato di 78. E gli specialisti dicono che il merito è dell'aumento dell'età media dei donatori e naturalmente dei notevoli progressi tecnologici. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo anche l'anticipazione del libro di Bruno Vespa. Ve la segnalo perché Bruno Vespa è riuscito in questa impresa che io non ricordo da tantissimi anni, cioè di riuscire a far pubblicare anticipazione del suo libro su almeno 3-4 quotidiani. C'è anche il Sole 24 Ore che non lo richiama in copertina come invece fanno altri, e poi trovate appunto questa anticipazione del libro che si intitola C'eravamo tanti amati, a pagina 30, e il titolo scelto per l'estratto è Quando l'Italia sapeva correre. La Repubblica, anche in questo caso titolo principale su Brexit, sentenza a sorpresa, il Parlamento dovrà votarla. E poi vi segnalo anche, visto che mancano veramente pochi giorni al voto per le presidenziali, abbiamo sentito nei telegiornali, nel GR, sentiremo ancora oggi questo distacco bassissimo che c'è ormai tra Hillary Clinton e Donald Trump, intorno all'1,7-1,8%, che corrisponde anche con la possibilità di errore statistico, quindi sono di fatto appaiati. E Federico Rampini, che da tanti anni vive negli Stati Uniti ed è corrispondente, in questo momento scrive da New York per Repubblica, racconta un po' quel mondo che tifa Trump. E è curioso l'attacco: se votasse il resto del mondo, Hillary Clinton stravincerebbe, ma l'elenco dei paesi dove Donald Trump avrebbe un risultato decoroso è sorprendente. E trovate poi il resto del reportage, dell'articolo, anche se vogliamo dell'analisi di Federico Rampini, alle pagine 6 e 7. Poi una storia che però, vedremo poi, non è una bellissima storia secondo me. È successo che in un ospedale di Genova una signora aveva un gatto che era caduto, l'ha portato da un suo amico medico che gli ha fatto un'ecografia. Da qui il titolo: il gatto privilegiato che in ospedale supera la fila degli esseri umani per la radiografia. Chi magari mi ha sentita sa che sono una gattara, ma questa non è una bella storia secondo me, perché non si chiede una corsia di preferenza a un amico che lavora in ospedale perché il proprio gatto sta male. Si chiama, e in una città come Genova si chiama un veterinario di quelli disponibili 24 ore su 24. La Stampa ha invece un titolo diverso, anche se in prima pagina c'è ovviamente la notizia della sentenza dell'Alta Corte di Londra sulla necessità che il Parlamento si esprima sulla possibilità della Brexit. Il titolo principale però è dedicato al referendum. Berlusconi tratta il rinvio con Renzi, l'intesa non c'è ancora. Di questo abbiamo sentito in realtà soltanto dei grandi retroscena, perché le posizioni ufficiali sono sia del Premier sia del Presidente della Repubblica che la data rimarrà quella del 4 dicembre. Però per esempio la Stampa sostiene che ci siano queste negoziazioni in atto con Berlusconi, che viene ancora considerato quindi il leader dello schieramento di opposizione, soprattutto dello schieramento del no alla riforma costituzionale. Ci sarebbero appunto delle trattative per rimandare il referendum, per posticiparlo. La fotonotizia però della Stampa è dedicata a Artissima, che è forse la fiera di arte moderna e contemporanea più importante in Italia, che si apre oggi a Torino. La Stampa è il quotidiano torinese per eccellenza, e quindi una bella foto dove si richiama, che poi richiama l'articolo che poi trovate a pagina 26 e 27. Ci saranno ben 193 gallerie da tutto il mondo che appunto espongono da oggi ad Artissima. Vi segnalo sulla riforma costituzionale, ma non solo, un'intervista che trovate richiamata in prima pagina e poi all'interno a pagina 3 ad Andrea Guerra, ex amministratore delegato di Luxottica, poi si è dimesso da amministratore delegato di Luxottica e è stato per un periodo consigliere economico del governo Renzi, adesso è andato a lavorare con Oscar Farinetti da Italy, e il virgolettato scelto per titolare l'intervista che gli ha fatto Jacopo Iacoboni è: ora Matteo trova il coraggio di fare un nuovo governo. Secondo Guerra vincerà il sì, e però considera questo il referendum un'occasione per rivedere una serie di errori che secondo appunto Guerra Renzi ha fatto. Iacoboni gli chiede: dov'è che Renzi ha sbagliato in questi anni? E Guerra risponde: lo guardo in prospettiva, serve meno solitudine e più diversità nella scelta delle persone che avrà intorno. Renzi vive non per colpa sua ma per difendersi da Roma, chiuso a Palazzo Chigi. oggi, anche in questo caso, tocca buttare giù i muri, aprirsi a più persone, più mondo esterno, anche dentro i palazzi. Deve rottamare definitivamente tutti noi. Quindi dice appunto anche questi consiglieri come me, di cui si era circondato, e avere a che fare con la sua generazione, senza subire il fascino degli anziani, dei media, dell'impresa, dei presunti salotti buoni, della finanza. Ci fermiamo però un attimo per una pausa e riprendiamo subito dopo, sentendo anche altre opinioni sul referendum. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci stanno mandando dei messaggi o al 349-238-6666 o con un SMS o con un WhatsApp. E torniamo appunto sulle prime pagine. Vi segnalo il giorno perché come abbiamo visto che un po' le aperture si dividono tra chi sceglie la Brexit, la notizia sulla Brexit, e chi invece torna sul referendum, così il giorno, la data resta. Infatti secondo il giorno, nonostante tutte le voci che circolino, smentite peraltro sia dal Premier che dal Capo dello Stato, si voterà comunque il 4 dicembre. Però vi segnalo la fotonotizia che è dedicata, c'è una foto storica dell'alluvione del 66 a Firenze, di cui oggi cade il 50° anniversario, con un'intervista a Franco Zeffirelli, che all'epoca non era neanche più un ragazzino, perché Franco Zeffirelli ha superato i 90 anni, è un fiorentino doc e decise anche di fare un film su quell'alluvione e racconta appunto il suo ricordo sia dell'alluvione sia di poi quello che decise di fare come regista. Oggi tra l'altro a Firenze ci sarà in visita appunto il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Messaggero: un voto può cancellare Brexit, quindi scelta appunto su questa decisione dell'Alta Corte di ieri. E poi vi segnalo dal Messaggero una notizia che ci fa capire che l'inchiesta alla mafia capitale va avanti, anche se non se ne parla più come nei primi giorni, nei primi mesi. Ieri infatti è arrivata una prima sentenza. Il GUP Claudio Carini ha dato 2 anni e 8 mesi a Luca Odevaine per l'affare dei migranti. È un patteggiamento, quindi vuol dire che Odevaine si è dichiarato colpevole, che la pena è quindi stata ridotta notevolmente. Poi ci sono tutti gli altri filoni dell'inchiesta e gli altri imputati che naturalmente vanno avanti. Il Giornale, come vi dicevo, è uno di quei quotidiani che oggi ha un'anticipazione del libro di Bruno Vespa e lo richiama in copertina. Il titolo questa volta è Agnelli e Lama, così iniziarono i guai dell'Italia, e all'interno appunto l'estratto di questo libro di Bruno Vespa che racconta in particolare l'estratto scelto dal Giornale di quello che successe nel 1975 quando Lama era leader della CGIL e Gianni Agnelli era naturalmente l'amministratore delegato della Fiat. Poi passiamo invece a Libero, fucilata alla Brexit, con una fotonotizia di Gina Miller, che ha 51 anni, viene definita la donna che umilia la democrazia inglese. È per il suo ricorso, lei era pro, voleva restare nell'Unione Europea, è lei che ha promosso insieme ad altre persone questo ricorso all'Alta Corte, e quindi adesso appunto viene definita la donna che umilia la democrazia inglese da Libero. La Verità, vi segnalo anche la prima pagina della Verità, il quotidiano fondato più di un mese fa da Maurizio Belpietro, con una che come sempre ha fatto questa scelta perché si distingue anche così dagli altri quotidiani, di titolare non tanto sulla cronaca ma su qualche cosa che un'inchiesta che ha promosso la stessa Verità. In questo caso è sui fallimenti delle aziende. Dal 2009 a oggi sono 100.000 le imprese finite a gamba all'aria, il dato del 2015 è in aumento del 55% rispetto a quello di 6 anni fa, da qui il titolo: falliscono 57 aziende ogni giorno. La fotonotizia richiama un'intervista a Susanna Tamaro, sapete l'autrice di Va dove ti porta il cuore, fu il suo bestseller più famoso, poi ha scritto anche tanti altri libri, ma quello resta credo uno dei bestseller assoluti del dopoguerra, se non dell'intera letteratura dello scorso secolo italiana. In questa intervista è appena uscito un altro libro, l'intervista viene titolata La teoria gender demolisce la vera natura dell'uomo e sono andata per curiosità a vedere se veramente ha usato queste parole. In realtà è un po' diverso, comunque l'intervista completa la trovate a pagina 13 di Maurizio Caverzan che le chiede, lei è pessimista riguardo della natura umana? Negli uomini, nel libro gli uomini non fanno una bella figura e Susanna Tamaro risponde, mediamente non la fanno, la natura umana è sempre stata terrificante, adesso vediamo e ascoltiamo di più, ma questo ci fa sentire ancora più terrificanti. La postmodernità ha demolito le basi della natura umana. E Caverzan le chiede in che senso? Nel senso che si ritiene che solo il nostro desiderio ci crei e ci definisca. E qui la domanda. Si riferisce alla teoria gender, in base alla quale la persona può stabilire il proprio genere di appartenenza? E lei risponde, è un esempio, si crede che tutto dipenda dalla cultura e poco o niente dalla natura. E questo, appunto, questa frase viene sintetizzata in quel titolo un pochino meno esplicativo, che è la teoria gender demolisce la vera natura dell'uomo. Il Fatto Quotidiano, un titolo diverso, anche se anche Il Fatto ha in copertina la notizia della Brexit e anche gli aggiornamenti sul referendum, perché Il Fatto Quotidiano analizza quello che il testo della riforma costituzionale e scopre che, altro che tagliare, il nuovo Senato regala l'aumento ai super burocrati. Pare infatti che, nonostante si spacci, potremmo dire così, questa riforma anche come un grande risparmio dei costi della politica, in particolare quelli legati al Senato, in realtà ci sia questa norma che aumenterebbe di 1.600 lordi al mese lo stipendio di alcuni burocrati del Senato. Il Foglio ha un'analisi in prima pagina del fondatore Giuliano Ferrara sulla Brexit, a chi spetta l'ultima parola. E invece l'Unità titola sulla strage dei migranti che abbiamo visto, strage senza fine, oltre 230 morti, tanti bambini in un barcone rovesciato davanti a Lampedusa. E poi c'è un intervento di Paolo Virzì, il regista che si è sempre dichiarato di sinistra, che dice Bersani, ma cosa c'entri tu con il no? E invece poi c'è anche un intervento di Dario Nardella, il sindaco di Firenze, che torna sul tema che dicevamo dell'anniversario dei 50 anni dell'alluvione che mise in ginocchio Firenze. C'è un'Italia che sa rialzarsi da fango o macerie, quindi un po' un parallelo tra come riuscì una città un'intera regione anche a rialzarsi e a superare lo shock dell'alluvione, e oggi speriamo che succeda lo stesso con tutte le regioni dell'Italia centrale che sono state particolarmente colpite dal terremoto. L'Avvenire, freno alla Brexit, quindi anche anche l'Avvenire fa questa scelta, anche se in prima pagina con molta enfasi c'è anche la notizia dell'ennesimo naufragio con appunto questi 239 morti. Due le fotonotizie, una riguarda i dati impressionanti sui rischi delle scuole. Nell'Italia dei terremoti rischiano 9 scuole su 10 perché non sono state costruite con criteri antisismici, o se sono state poi rafforzate comunque non esiste una certificazione chiara. E l'altra fotonotizia si intitola, c'è una foto che fa vedere quei lettini in cui vengono legati i condannati a morte che vengono uccisi con le iniezioni letali. Le telefonate del Papa ai condannati a morte, annuncio verso il giubileo dei carcerati che ci sarà domenica. E anche qui ho fatto una ricerca mentre appunto nella pausa tra la prima parte di 24 Mattino e questa dedicata alla rassegna stampa, abbiamo detto sono 196 ufficialmente i paesi nel mondo. In 100 di questi, quindi nella metà praticamente, la pena di morte è abolita. In tutti gli altri esiste ancora, magari alcuni non la praticano più da tanto tempo, però esiste ancora. E trovate questa notizia, pagina 5, Monsignor Fisichella ha appunto raccontato che Papa Francesco ha telefonato a dei condannati a morte e poi ricorda che domenica ci sarà questa messa con i detenuti. Il Manifesto, l'ultimo prima pagina che vi cito, è una fotonotizia molto grande con il solito titolo a effetto del Manifesto, è Hot Spot. Sapete che gli hot spot sono quei luoghi dove vengono fatte le prime operazioni per stabilire l'identità dei migranti. Qui però hot spot si gioca un po' con un altro significato letterale, che è punto caldo, e la foto è quella di cinque migranti che sono in qualche modo galleggiano, sono vivi, si vede che sono vivi, però con dei salvagenti, quindi dà un'idea appunto di quello che sta succedendo ancora nel Mediterraneo, anche se sta arrivando il freddo, ma ci sono ancora tutti questi salvataggi. Passiamo un po' alle pagine interne. Oh, ma colpevolissima, mi stavo dimenticando, no, scherzo di Mauro Meazza, che invece adesso ci racconta meglio del sole. Ci sei, Buongiorno Mauro. Giulia, Oh, buongiorno Mauro, innanzitutto scusami. sono molto contento di sentirti perché temevo invece la telefonata di Alessandro che per motivi con i quali non ti voglio annoiare sarebbe stato, io credo, particolarmente caustico questa mattina nei miei confronti, per questioni calcistiche, cose minori, insomma. Non ti voglio annoiare con queste bagatelle, invece ti segnalo che oggi è una giornata importante per le questioni del terremoto e della ricostruzione, perché aspettiamo il varo dal Consiglio dei Ministri di un decreto legge che poi, per fare prima, finirà dentro un altro decreto legge, insomma, si cerca di accelerare al massimo. Che cosa c'è qui dentro? Tra l'altro, una particolare celerità per quanto riguarda l'accesso ai fondi per la ricostruzione. È tutto spiegato, anche se io l'ho riassunto un po' malamente, a pagina 7 del Sole 24 Ore di oggi. Corsia veloce, questo è il termine, insomma, cerchiamo di far presto per gli aiuti alle zone colpite dal terremoto. Invece ho due cosine da segnalarti. L'una nelle pagine di finanza che tu, essendo come dire, persona scrupolosa, già so hai letto avidamente. La prima replica di Google alle obiezioni dell'antitrust UE. Sai che Google rischia una multa da 7,5 miliardi di dollari, quindi Più insomma, alta di quella che prese sì, e non è neanche la Microsoft. rottamazione delle cartelle, sì, pensa un po' che dispiacere. Però insomma è tutto spiegato nella prima pagina di finanza, delle pagine di finanza che tu appunto hai già letto avidamente, quindi non ti voglio annoiare, lo segnalo invece per i nostri ascoltatori. Ma è interessante anche nelle pagine di norme e tributi che tu hai già letto religiosamente, naturalmente, perché la Cassazione ha confermato che se uno fa propaganda all'ISIS su Facebook, mostrando di avere anche dei legami con i terroristi dell'ISIS, ebbene allora è giusta la custodia cautelare in carcere, quindi una sorta di reato di opinione rafforzato, è tutto spiegato nelle pagine di norme e tributi. Non ti annoio neanche su questo, lo dico sempre a beneficio dei nostri ascoltatori. C'è una cosa, l'articolo da meditazione, sai che abbiamo, ecco, la pagina direi da meditazione di oggi è la prima pagina di Imprese e Territori, perché parliamo dei dati sull'occupazione, che sono buoni, lo diciamo subito. Sono buoni, ma va letto attentamente quanto scrive Giorgio Pogliotti, perché sono buoni con alcune precisazioni. La disoccupazione giovanile resta molto alta e questo non è buono. E poi c'è una spinta soprattutto del lavoro fai da te, insomma, dell'autoimprenditorialità. Ma è stato anche coniato questo nuovo termine, EET, perché abbiamo i NEET, ecco, abbiamo anche gli EET o NEET, non so adesso quale pronuncia tu preferisca, e comunque IT o EET sta per occupati, educati e anche formati, insomma trained in latino, cioè chi il lavoro un po' se lo dà da sé. Sono in crescita questi valori, soprattutto nel sud. Pagina da meditazione, la prima di Imprese e Territori. Infine, ma non per questo meno importante, vorrei segnalarti un articolo di Moda 24. Sai che il venerdì, non so se lo sai, ma il venerdì ci sono le pagine di Moda 24. Ho letto con molto interesse un articolo di Giulia Crivelli, non so se. Perché questo articolo di Giulia Crivelli, È non una so mia Giulia se la omonima, conosci, non è forse un'omonima. una parente potrebbe essere, Sì. no, però parla, scherzi a parte, del reshoring, cioè di quelle imprese che decidono di riportare la produzione in Italia. Storie di successo di reshoring raccontate oggi su Moda 24. Quindi Grazie. andata e ritorno, quello come la mia squadra del cuore, che appunto è andata fino in Inghilterra e poi è tornata indietro. Vabbè, speriamo che non abbia trovato, cara Giulia, Sai che anche la mia squadra. traffico! mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna stampa e ancora ringrazio tutti gli ascoltatori che si prendono, insomma, l'impegno, si prendono quei minuti che servono per mandarci un messaggio al 349-238-6666 E dicevamo, oggi è l'anniversario dell'alluvione che colpì Firenze 50 anni fa nel 66, che sommerse Firenze, e la raccontano, ci sono due bei racconti sul Corriere della Sera, uno di Angelo Scola, che oggi è cardinale ma allora era un professore di liceo, e racconta a pagina 10 del Corriere della Sera: ero dentro quel disastro, capii cos'è la carità. E forse appunto qualcuno è familiare con l'espressione angeli del fango, così vennero definite le persone, anche molto giovani, che accorsero da tutta Italia per aiutare a spalare il fango e a ripulire la città. Alla pagina 11, dove c'è anche un disegno che fa capire il livello raggiunto dall'acqua, altro che acqua alta a Venezia, pensate che in Santa Croce si arrivò a 4,83 metri di acqua, e il racconto ce lo fa Gian Antonio Stella, e alla radio si sentì l'acqua nelle strade. Sempre a proposito di schemi che fanno capire un po' quasi con un colpo d'occhio quello che potrebbe succedere martedì, sapete che il sistema americano per eleggere il presidente è molto diverso, forse addirittura un po' farraginoso, non si contano tanti voti popolari, o meglio si contano, ma poi quei voti popolari corrispondono ad altri voti, i cosiddetti grandi elettori, e quindi il Corriere a pagina 13 spiega quattro modi in cui Trump può vincere, facendo vedere a seconda di quali stati verranno conquistati o da Hillary Clinton o da Donald Trump, chi potrebbe poi alla fine risultare il vincitore. Dalla Repubblica vi segnalo il quarto articolo di una serie intitolata I borghi da salvare, che tra l'altro è richiamata dal disegno che Tullio Pericoli, grande illustratore, disegnatore, artista italiano e anche marchigiano, ha fatto nei giorni successivi, il giorno dopo il terremoto, che era una specie di doppia copertina di Repubblica, quindi con quel disegno che richiama le sue terre, le colline marchigiane, viene usato adesso in questi giorni per appunto questa serie di articoli dedicata ai borghi. Oggi Corrado Zunino racconta Visso, Trote, Ciauscolo e tappeti artigianali nel cuore ferito dei Monti Sibillini. Vi dicevo la vicenda del gatto portato, ho detto che era a Genova, in verità è a Imperia, ma non cambia molto la questione. Questa signora era amica, conosceva un radiologo, ha portato il suo gatto in ospedale, e a questo gatto è stata fatta un'ecografia. Adesso ci sono tra l'altro a Imperia 10 indagati per tutt'altra truffa sanitaria. Repubblica mette un po' le due cose insieme. Come dicevo, io da gattara dico, non è una bellissima storia, perché se il tuo gatto ha un problema anche urgente, si chiamano, in grandi città come quelle si chiamano i servizi di veterinari 24 ore su 24. Vi segnalo invece dalla Stampa un argomento che è stato toccato anche nei giorni scorsi proprio qui a 24 mattino, cioè la possibilità di mettere una sorta di tassa sui turisti a Venezia. Nel ponte del primo novembre Venezia è stata invasa, e quindi un'intervista al sindaco Brugnaro di Giuseppe Salvaggiulo, il titolo scelto dalla Stampa: a Venezia i turisti mordi e fuggi pagheranno una tassa più alta. Invece, a proposito di terremoto, c'è un interessante reportage sul Messaggero a pagina 9 dall'Aquila, per capire a distanza di tanti anni, perché il terremoto fu nel 2009, che cosa succede adesso all'Aquila. Prima di tutto ci sono ancora scosse anche lì, l'Abruzzo è stato meno colpito da questi terremoti di quest'anno, ma comunque le scosse si sono sentite anche lì, e quindi all'Aquila, New Town e scosse, e purtroppo la conclusione a cui sono arrivati due inviati del Messaggero è che il centro dell'Aquila, comunque a distanza appunto di 7 anni, non sta rinascendo. Dal Messaggero un po' un articolo da Mani sul Volante, perché c'è un'inchiesta sul fatto che le opere annunciate per il Giubileo di Roma sono rimaste sulla carta. Dai 146 interventi annunciati nel 2015 dal Campidoglio, pensate, ne sono stati portati a termine 46. L'Unità ha quattro pagine dedicate all'alluvione, il titolo: dall'alluvione si esce tutti insieme. Il Fatto Quotidiano, anche qui una notizia che ha solo il Fatto, è una una notizia che viene da Catania, funerale del nipote, il boss ordina tutti i negozi chiusi. Il 28 ottobre questo ragazzo di 16 anni, che era parente di Giuseppe e Carmelo Ruscica, arrestati entrambi 3 anni fa, appunto boss, quindi boss mafiosi, siamo in Sicilia, siamo a Catania, il 28 ottobre questo ragazzo ha avuto un incidente ed è morto, il quartiere in lutto, la cerimonia viene bloccata dalla questura dopo l'interpellanza di un senatore grillino che ha scritto in questa ordinanza: non viviamo in un narcostato, quindi appunto un boss della mafia non può ordinare che per i funerali del nipote tutti i negozi vengano chiusi. Ci sarebbero ancora tantissime altre segnalazioni, ve ne faccio un'altra su un altro anniversario che ricorda soltanto la verità. Il 4 novembre, infatti, di 60 anni fa, non 50 anni fa, i carri armati dell'URSS occuparono l'Ungheria, sbriciolando sotto i cingolati ogni aspirazione democratica, la rivoluzione che Napolitano negò. Sapete che ancora adesso durano le polemiche sulla posizione che l'allora Partito Comunista prese su questo intervento dell'Unione Sovietica in Ungheria, dove si cercava di distaccarsi un po' dall'influenza dell'Unione Sovietica senza riuscirci. Era appunto l'ultima segnalazione per oggi. Dico a tutti gli ascoltatori che mi stanno chiedendo dov'è Alessandro. Alessandro torna lunedì. Vi auguro ancora quindi una buona giornata, un buon weekend. Ringrazio Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli in redazione. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.